la allí catanji barambia la allí catanji moni kisela sela kisela moni kineko nemo penekete te di nanyo ala ngiri obunyu ji barambi te di nanyo ala ngiri obunyu ji baibi barambi ala aji kataji moni kisela kisela kisela moni Baby.